Mi dispiace. Io so io. E voi non siete un cazzo. E voi non siete un cazzo. È tutto chiaro? Ho comprato queste scarpe in un negozio d'armi da fuoco. Non le vendono nelle boutique in Duomo. Hanno la punta d'acciaio ed un albero sul logo. Vanno bene sia al lavoro che a legnare dentro il pogo. Ho schivato un impiego al call center. Ho trollato jet set e trendsetter. Ho lo zippo dentro una fondina in pelle. Ho fatto i like per bruciare quelle. Come Kylie Jenner negli uso amici redneck. Ho sparato nel deserto in Arizona con una K47. Ho il mio nome sull'erba legale più potente. Ho più o meno ci mette nel mio piumino CS. Ho la cazzimma da quando la timba beva suola Vibram. Ho il solo disco dei Black Sabbath con Ian Gillan. Ho citazioni vintage fuori dalla mischia. Usa Google o va fuori dalla minchia. Degli sbarbati me ne sbatto. Ho un contratto con la Sonic anche se non gioco in cazzo. Come Ronaldo, giovane per finta. Non penso, sono un artista per tutta la famiglia Manson. Il mio testo sul diario di tuo figlio. I fan con la maglia dei Sex Pistols. Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Kiko. Il vero status symbol. E dimmela bro, e io ce l'ho. E tu non ce l'hai. E io ce l'ho, e tu non ce l'hai. Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro. E tu non ce l'hai. La società ci impone i suoi canoni di bellezza. Ho la resilienza di chi ha imparato a farne senza. Ed è chiuso in fabbrica però la spugna non la getta. Suona la chitarra anche se ha perso un dito nella pressa. Ho una libreria che è l'incubo di un intellettuale. Perché ho letto il capitale, ma ho anche fatto il capitale. Ho fangoria e zero calcare. Non smette di giocare chi invecchia ma invecchia chi smette di giocare. Ho l'amore delle milfe, l'odio di mamme leghiste. Ho un amico tunisino che si fa le loro figlie. E se carta canta in banco carta business. Ho il platino fatto quest'anno e quello del 95. Il mio testo sul diario di tuo figlio. I fan con la maglia dei Sex Pistols. Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Kiko. Il vero status symbol. E dimmela bro, e io ce l'ho. E tu non ce l'hai. E io ce l'ho, e tu non ce l'hai. Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro. E tu non ce l'hai. E io ce l'ho. Tutti per il culo, non ho mai comprato un Rolex. In Italia il sarcasmo non si usa come il goldone. Non ho niente da dimostrare né da compensare. Quindi non ho Lamborghini perché c'ho il cazzo normale. Ho ignorato analfabeti che mi prendono alla lettera. Ho spaccato anche alla tele come i Griffin mica Letterman. Ho riso di ogni recensione pessima perché ho gente con i miei testi tatuati sulla vertebra. Ho cocchiere nato che mi danno il 5. Dall'alto ho gli annacci che mi osserve ed annuisce. Ho l'abitudine di realizzare roba che qui non esiste. Ho fatto rock and roll con due piatti e un mixer. Nato alla luce della madonnina. Non ho paura del buio perché soltanto lì capisci chi ti stima. Non ho solo fatto fortuna, ho battuto la mia sfiga che colpiva con quattro braccia come Shiva. Ho le foto di mio nonno sporco di carbone con trattore carabina mentre mira il dittatore. Su di me fanno tendenza anche le scarpe da operai. Passano le mode, lo stile invece mai. E io ce l'ho, e tu non ce l'hai. E io ce l'ho, e tu non ce l'hai. Schiaccio le tue Birkenstock con le Timberland Pro. E tu non ce l'hai, e io ce l'ho. Cacco in testa a tutti perché vivo in aria. Quindi su cacco in testa a tutti perché vivo in aria. Il mio testo sul diario di tuo figlio. I fan con la maglia dei Sex Pistols. Le Jordan le mettevo quando tu calzavi Kiko. Il vero status symbol. E dimmela.